Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi dalla crisi vogliamo uscirci con la democrazia, abbiamo chiesto anzi alla Commissione europea, che è custode dei trattati, di verificare se la legge ungherese è conforme all'articolo 2 del nostro trattato, perché tutti gli Stati europei hanno il dovere di proteggere i nostri valori. Per noi i Parlamenti devono restare aperti e la libertà di stampa deve essere libera. Nessuno può usare questa pandemia per manipolare la nostra libertà. E il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, si riferiva a quello che è successo ieri in Ungheria, con il Parlamento che ha dato i pieni poteri al primo ministro Viktor Orban, il quale può governare quindi sine die, sino quando vuole, può bloccare le elezioni, può chiudere il Parlamento, può anche decidere che ciò che viene dai media, dall'informazione, in qualche modo va censurato. Insomma, quindi è una levata di scudi che c'è stata ieri, in parte non così eclatante, da parte di alcune forze politiche, da altre invece è stato approvato, perché hanno detto, soprattutto dal centrodestra in Italia, che il Parlamento è sovrano. E oggi questo è stato invece l'appello del presidente, appunto, del Parlamento europeo per quanto riguarda i valori europei del nostro continente. Parleremo questa sera di moltissime cose, una puntata ricchissima, quindi cercherò di fare un sunto molto veloce perché poi bisogna passare al sodo. Parleremo anche di tecnologia e applicazioni, perché sono partiti oggi i lavori della task force voluta dal Ministero dell'Innovazione per trovare delle soluzioni, per esempio per le applicazioni per il tracciamento dei contagi e per altre cose. Per esempio, sapete che si usano già i droni in alcune regioni per il controllo anche della popolazione, di chi esce, di chi magari esce in gruppo, gli assembramenti, eccetera. E quindi ci sarà il segretario generale del Garante della Privacy, anche per capire questo aspetto così delicato. Purtroppo dovremo tornare a parlare di femminicidi, ce ne sono stati due in Italia in poche ore oggi e già nei giorni scorsi. Tante volte vi ho ripetuto che quello della clausura forzata per le donne che subiscono violenza è una doppia difficoltà, una doppia tragedia in molti casi. Poi, le mascherine vanno usate o no? L'OMS forse ha dato, anche alcuni ricercatori, alcuni scienziati, delle opinioni diverse. Sentiremo quello della presidente dell'Associazione Mondiale di Medici e di Medicina Immunologica. Poi molte altre cose, non vi sto ovviamente ad anticipare tutto, voi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, tanto siete lì a casa tranquilli e tranquille. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, ripeto 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì comodamente per voi giorno e notte. Durante il giorno, per alcune anticipazioni, c'è il Twitter Roby con la Y Linetta Bassa Giordano, se no durante la diretta per seguire anche le dichiarazioni più importanti. Direi che possiamo partire. Il coronavirus in Italia ha raggiunto il picco dei contagi, ma la guardia deve restare alta, dice l'Istituto Superiore di Sanità. Meno casi in terapia intensiva in Lombardia e a Milano è inaugurato l'ospedale della Fiera, costruito in 10 giorni. Il minuto di silenzio per le vittime oggi e bandiere a mezz'asta in tutta Italia, uniti nel lutto, iniziativa dei comuni. Economia, l'allarme di Confindustria, PIL meno 10% nel primo semestre, poi una lenta risalita, no dell'Olanda allo strumento europeo dei coronabond. La strage delle donne per mano di compagni e mariti, e in poche ore 2 femminicidi, uno vicino Messina, uno a Firenze. Le misure restrittive peggiorano le condizioni delle donne che subiscono violenza. A Effetto Notte sarà ospite la presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio. Coronavirus e tecnologie per il contenimento. Parte la task force voluta dal Ministero dell'Innovazione, ne fa parte anche il Garante della Privacy per vigilare sulle soluzioni ed è ospite qui a Effetto Notte. Calcio, la FIFA lancia un piano Marshall in Serie A, altre società per il taglio degli stipendi dei calciatori. Partiamo quindi dall'epidemia di coronavirus in Italia. È al picco dei contagi, spiega l'Istituto Superiore di Sanità, ma la guardia deve restare alta perché ci si trova ora sul pianoro, sul plateau, da dove bisogna cominciare poi a scendere. Se si molla sul contenimento e l'isolamento, da questa situazione l'epidemia potrebbe ripartire prima ancora che cominci la discesa. L'Istituto Superiore di Sanità mette a punto tecnologie con test rapidi per indagini più ampie per la ricerca degli anticorpi. L'indice di trasmissione è vicino a 1, cioè una persona persona positiva ha la potenzialità di infettare un'altra persona, ma va mantenuto dimezzato e per il valore zero contagi ci vorranno dei mesi. Oggi 2107 malati, 836 vittime più di ieri. Gli esperti registrano una diminuzione dell'incremento dei ricoverati e nelle terapie intensive con numeri in contenimento. Però sui numeri sentiamo direttamente oggi in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Borrelli. Persone attualmente positive è di 77.635, con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti. Il totale dei guariti complessivamente è di 15.729, rispetto a ieri le persone guarite sono 1.109 in più. Citavo prima le dichiarazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, del presidente Brusaferro, che ha detto la curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita, ma che dobbiamo iniziare la discesa, e la discesa si comincia applicando le misure in atto. In qualche modo ci troviamo in una situazione in cui sembra che stiamo arrivando, come ci stiamo dicendo da qualche giorno, a una specie di plateau. Dobbiamo confermarlo, però certo questo è un dato che ci dice che le misure stanno funzionando. Persone attualmente positive è di 77.635, con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti. Il totale dei guariti complessivamente è di 15.729, rispetto a ieri le persone guarite sono 1.109 in più. Arrivare al plateau non vuol dire aver conquistato la vetta e adesso è finita, vuol dire che dobbiamo cominciare la discesa. E la discesa si inizia, può iniziare se continuiamo a porre la grandissima, massima attenzione a quello che facciamo quotidianamente. E Angelo Borrelli, ritornando al capo della Protezione Civile, ha ribadito la necessità di mantenere il rispetto delle regole, quindi. Vengono gestite attraverso dei buoni spesa per l'acquisto di derrate alimentari e di generi alimentari. La gestione di questi buoni spesa sarà a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze e i comuni potranno avvalersi anche degli enti del terzo settore, dei volontari di protezione civile per l'acquisto delle derrate e per la distribuzione. Seguire le indicazioni che sono state date dalle autorità e in particolar modo anche dal governo, perché se noi vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo adottare corretti comportamenti, quindi mantenere il distanziamento sociale. Su questo non ci stancheremo mai di dirlo. Un giorno arriverà il momento in cui potremo non rispettare questa regola, ma in questo periodo e per i prossimi tempi questa regola per noi deve essere una regola ferrea. E in Lombardia i numeri sono stati, diciamo, abbastanza confortanti, col primo giorno di saldo negativo per i posti in terapia intensiva. A dare una mano da oggi è arrivato anche il nuovo ospedale alla Fiera di Milano, che è stato costruito in 10 giorni, inaugurato proprio oggi, ne parleremo poi tra poco. Vi devo dire anche che il Viminale, Ministero dell'Interno, ha corretto poco fa una circolare emessa nel pomeriggio che dice che questa giusta, che dice che tra le attività motorie ammesse resta quella di fare jogging intorno a casa propria, insomma nelle vicinanze. Lo afferma il Viminale precisando la circolare che era stata firmata da Matteo Plantedosi, capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, e inviata oggi a tutti i prefetti per fornire chiarimenti, in cui c'era stato scritto erroneamente che nell'attività motoria non si consentiva il jogging, invece lo si può fare sempre appunto nelle vicinanze della propria abitazione. Allarme rosso, passiamo all'impatto economico. Allarme rosso da Confindustria, che stima nel primo semestre una caduta complessiva del prodotto interno lordo, cioè la ricchezza del paese, del 10%, e poi una risalita lenta, ipotizzando il superamento della fase acuta a fine maggio, un meno 6% per il 2020. L'economia italiana è stata colpita al cuore, c'è il rischio di depressione, dice il presidente di Confindustria, e servono interventi massivi sia su scala nazionale che europea. Bruxelles deve dimostrare, dice Confindustria, di saper essere all'altezza dell'emergenza. Allora, su questo sentiamo Marcella Panucci, direttrice generale di Confindustria, ha detto non bisogna drenare dalle imprese la liquidità che c'è ma che si sta esaurendo. La direttrice generale di Confindustria, bene gli sgravi della Cura Italia, dice, ma se non sosteniamo la liquidità delle imprese che ora sono chiuse, queste rischiano di non riaprire. E poi c'è stato anche l'appello del presidente di Confindustria Vincenzo Boscia. Ma sentiamo Panucci, intervistata da Sebastiano Barisoni oggi a Focus Economia. Non bisogna drenare dalle imprese la liquidità che c'è, ma che si sta esaurendo, perché chiaramente questo blocco ormai va avanti da tempo, e quindi benissimo i provvedimenti di ammortizzatori sociali, le sospensioni fiscali e contributive dei pagamenti, che però sono ancora molto molto limitate e vanno estese a quelle imprese che stiano subendo cali decisi di fatturato o che fatturino zero. Però la verità è che qui, se noi non sosteniamo la liquidità delle imprese, purtroppo molte di quelle che oggi sono chiuse rischiano di non riaprire, ma anche quelle che sono aperte stanno sperimentando difficoltà enormi perché non ricevono i pagamenti magari dai loro clienti. Di oggi proprio l'appello del presidente Boccia a tutti gli imprenditori italiani di onorare i propri impegni contrattuali e pagare i fornitori, altrimenti si innesca davvero una spirale viziosa. Adesso il punto sui cosiddetti corona bond. Oggi hanno parlato i ministri delle finanze del fronte rigorista, cioè Germania e Olanda. Nel giorno in cui l'Olanda ha fatto registrare il numero maggiore di vittime da coronavirus, 175, ma si ritiene che il numero reale sia più elevato, il paese capofila del fronte europeo rigorista finisce sulla difensiva. Il ministro delle finanze Ekstra, autore dell'infelice domanda sul perché il budget spagnolo non avesse margini sufficienti per affrontare la pandemia, ha dovuto riconoscere l'errore: ho mostrato troppa poca empatia, ma non ha indicato segni di arretramento sulla posizione relativa ai corona bond. Il nostro orientamento non cambia, ha insistito, pur aprendo ad una generica disponibilità alla solidarietà europea. Vogliamo vedere in modo solidale cosa è razionale e ragionevole, ha chiosato, riferendosi alle misure economiche eccezionali che l'Eurogruppo dovrà proporre la prossima settimana. Prima di lui aveva parlato il ministro delle finanze tedesco Scholz, anticipando la nuova linea dei paesi rigoristi. Anche la Germania si dice pronta alla solidarietà europea, che va pensata e realizzata in modo intelligente. Eppure Berlino tiene ostinatamente il punto sul no ai bond, indicando nelle linee di credito precauzionali da 500 miliardi del meccanismo europeo di stabilità la strada da seguire. La via negoziale appare dunque ancora lunga. La prossima settimana sarà decisiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo a parlare purtroppo della strage delle donne per mano di compagni e mariti. Vi dicevo che in poche ore ci sono stati due femminicidi in Italia, uno vicino Messina e un altro a Firenze, perché le misure restrittive tra l'altro peggiorano le condizioni delle donne che subiscono violenza e sono costrette a stare proprio a stretta vicinanza con i loro aguzzini. Effetto notte, sentiremo poi nel corso di questa puntata, sarà ospite la Presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio. E adesso l'iniziativa oggi dei sindaci uniti nel lutto e nel sostegno per le vittime. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio. Con indosso la fascia tricolore a mezzogiorno, i sindaci di tutta Italia hanno ricordato così le vittime del coronavirus e ringraziato i medici e gli infermieri impegnati in prima linea. Partita dalla provincia di Bergamo e rilanciata dall'Associazione Nazionale dei Comuni, l'iniziativa ha visto molte adesioni, da Palazzo Chigi al Vaticano, passando per il Quirinale, il cui torrino da stasera sarà illuminato con luci tricolore. In questo momento l'Italia è unita e solidale, ha detto Antonio De Caro, presidente dell'ANCI e sindaco di Bari. Nelle amministrazioni comunali intanto si continua a lavorare per organizzare la distribuzione dei fondi destinati all'acquisto di generi alimentari stanziati dal governo per le famiglie meno abbienti, 400 milioni che però basteranno solo per due o tre settimane, avvertono i sindaci, alcuni dei quali hanno deciso di integrare le risorse statali con fondi propri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il punto dall'estero: superati per quanto riguarda i contagi gli 800.000 nel mondo, le persone morte per Covid-19 sono oltre 38.000 secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, il maggior numero di contagi negli Stati Uniti, in Italia e in Spagna. Dopo 5 giorni di rallentamento, la Spagna si è svegliata con una nuova ondata di contagi che potrebbero portarla ad essere il paese più colpito d'Europa, superando l'Italia. Con quasi 10.000 positivi in un solo giorno, il totale dei casi è arrivato ad oltre 94.000 e la penisola iberica conta purtroppo anche un nuovo record di decessi, 849 nell'arco di 24 ore. Sotto assedio in particolare Madrid, con oltre 27.500 contagi e 3.600 vittime. Al Belgio, dove sono quasi 13.000 contagiati, un altro triste primato, la vittima più giovane giovane in Europa, una bambina di 12 anni. E un ragazzo italiano di Teramo di 19 anni, morto nei giorni scorsi in Inghilterra, è risultato positivo al coronavirus. Si tratta della più giovane vittima sinora tra i nostri connazionali. Il ragazzo era a Londra, dove si registrano molti dei 25.000 contagi del Regno Unito, dove in 24 ore si sono registrati 381 decessi. E l'epidemia è tutt'altro che finita in Asia e nel Pacifico, avverte l'OMS, lanciando un appello perché ogni paese continui a prepararsi per la trasmissione su larga scala, cosa che l'Africa è ben lontana dal fare. In Repubblica Centrafricana ci sono 3 ventilatori per 5 milioni di persone. Ma è il nord del continente a patire al momento il maggior numero di contagi, quasi la metà degli oltre 5.200 casi confermati in Africa e la maggioranza degli oltre 170 morti censiti. In India, predisposti più di 20 campi di accoglienza per i quasi 700.000 lavoratori bloccati mentre tentavano di rientrare nei loro paesi dalle megalopoli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel corso della puntata, fra le altre cose, ci collegheremo anche con gli Stati Uniti. Adesso di nuovo in Italia parliamo di coronavirus e tecnologie per il contenimento del Covid-19. Parte la task force voluta dal Ministero dell'Innovazione, ne fa parte anche il garante della privacy, che dovrà vigilare sulle soluzioni che verranno trovate, per esempio applicazioni varie, ed è ospite qui effetto note proprio il segretario generale dell'autorità garante della privacy. Poi c'è un altro, ci sarà fra gli ospiti anche la infettivologa Susanna Esposito, perché si danno ordini e controordini sull'uso delle mascherine e cercheremo di capire che cosa è giusto fare. Per chiudere, lo sport, anche la FIFA sta pensando a maxi investimenti per proteggere il calcio mondiale dalla pandemia. Un piano Marshall per soccorrere il calcio globale. Lo sta per varare la FIFA, il governo del calcio mondiale, per rispondere così alla minaccia rappresentata dalla pandemia. Appena il 26 febbraio scorso il presidente Gianni Infantino aveva presentato un progetto di sviluppo complessivo in 11 punti per il quadriennio 2020-2023. Poi il deflagrare del coronavirus ed ecco allora lo studio di un programma di sostegno e supporto per tutto il mondo, dalle grandi leghe europee al calcio africano e asiatico al football femminile. Piano colossale, ma le risorse ci sono. Nel quadriennio 2015-18 la FIFA ha contato ricavi per 5,9 miliardi di euro, più 16% rispetto al quadriennio precedente, allocando come riserva fondi per quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Una cassaforte cui ora attingere per evitare che la pandemia non sgonfi proprio adesso il pallone in tutto il pianeta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo si chiude la primissima parte naturalmente di Effetto Notte, perché poi gli ospiti tanti argomenti da trattare, quindi giusto una pausa adesso per aggiornare chi per esigenze molto motivate si trova in questo momento in strada o autostrada. C'è Piera che mi chiede: i moduli di autocertificazione sono scritti solo per i maschi? L'aveva chiesto forse anche qualche giorno fa, ma non avevo visto in tempo il messaggio. Allora, io quando compilo un modulo dove c'è scritto il sottoscritto, metto una barra, il, scrivo la, e poi sottoscritta metto una A. Quindi per ora, se ancora non sono fatti, diciamo, in modo corretto per tutti e due i generi, correggetelo voi se ritenete opportuno. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre pieni ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata che avete sentito all'inizio e poi degli approfondimenti insieme agli ospiti, ed è Roberta Giordano sempre ad accompagnarvi in questa ora insieme, che passiamo insieme. Vi ringrazio per essere a casa ad ascoltare tranquillamente Effetto Notte. C'è anche qualcuno che ha dei turni particolari di lavoro e quindi è giustificato magari ad ascoltare dal lavoro. C'è anche un ascoltatore, per esempio, che ogni tanto scrive dall'ambulanza perché guida un'ambulanza. Insomma, le persone fanno tante cose diverse, anche se la maggior parte naturalmente in questo periodo devono stare a casa. Lo ripetiamo ormai da tanto tempo, che l'Italia è purtroppo al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti per contagi da coronavirus, anche se insomma purtroppo si fa abbastanza concorrenza con la Spagna, ogni tanto risale una, poi risale l'altra, insomma questa è la situazione, e in particolare in Italia la regione Lombardia che è al primo posto nel nostro paese per malati e per vittime, e con il sistema sanitario che pur eccellente è stato messo a durissima prova e continua a essere piuttosto piegato insomma da questo peso enorme. Però oggi a Milano è avvenuta una cosa molto importante, cioè è stato inaugurato il nuovo ospedale costruito davvero in tempi record, nei padiglioni della vecchia fiera. È un ospedale che costituisce praticamente la più grande terapia intensiva d'Italia. E su questo coinvolgo la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore, che è stata sul posto. Cara Sara. Sì, buonasera. Sì, effettivamente ha preso poi corpo davvero questo progetto creato in tempi record, in 12 giorni, arriveranno nel fine settimana i primi malati e poi entro fine aprile, il cronoprogramma dice appunto il 30 aprile, verranno consegnati circa 250 posti di terapia intensiva e subintensiva, che è il grande allarme e la grande emergenza del Covid-19. Quindi si cerca di riparare a questo danno, ai danni appunto della sanità regionale, se non nazionale, che vede quindi succhiato tutte le sue energie per creare posti di terapia intensiva anche proprio dove non esistono, perché appunto si sta occupando anche posti di altre terapie e ci sono anche letti nei sottoscala proprio negli ospedali ormai. Quindi già, questo dovrebbe essere la diga, ecco, chiamiamola così, una diga che servirà ad arginare un'emergenza che in queste ore sembra un po' ridursi con segnali positivi dalla Lombardia, ma di cui ancora non conosciamo bene lo sviluppo, soprattutto nelle regioni del sud. Quindi questo potrebbe essere anche un luogo dove potrebbero essere ricoverate anche delle persone provenienti da altrove. Tra l'altro, Sara, va detto che non solo appunto è stato costruito in tempi record, ma anche con donazioni record, no? Perché oggi il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, ha detto intanto che sarà il simbolo della battaglia vinta, e poi ha detto che hanno dato dai 100 euro dalle persone generose che hanno dato 100 euro fino a chi ha dato anche 10 milioni. Ci sono stati oltre 1200 donatori, no? Che sono arrivati a 21 milioni di euro. Sì, 21 milioni. E poi il costo chiaramente è ancora difficile da definire, perché qua si sta procedendo un po' a vista, tutte le attrezzature. Fatti e rifatti, quindi progetti che vengono modificati, quindi diciamo si era partiti con un'ipotesi di 10 milioni, siamo arrivati a oltre 20, che sono le risorse quelle che la Fondazione Fiera, che è la proprietaria della struttura, ha messo prendendo donazioni proprie e private, più quelli della Regione Lombardia, che ha anch'essa raccolto donazioni di privati, 10 milioni che sono arrivati dalla famiglia Caprotti di Esselunga, per fare degli esempi, a Silvio Berlusconi, fino a SNAM che ha comprato i respiratori. Quindi, per dire, è proprio una sinergia di pubblico e privato, perché la fondazione è pubblica, o quantomeno un ente fieristico a metà strada, diciamo, tra pubblico e privato. Ci sono 40 imprese che hanno lavorato al progetto, c'è la centrale acquisti della Regione Lombardia, ma poi appunto ci sono questi 250 lavoratori privati, più gli ingegneri che pro bono hanno fatto i collaudi, quindi il policlinico che gestirà, ecco, perché da sottolineare che ci saranno a regime intorno ai 900 operatori sanitari, e il policlinico di Milano gestirà la struttura e quindi i turni dei vari operatori. Bene, allora vediamo appunto come parte, e tutto naturalmente il nostro buona fortuna, gli auspici migliori, perché questa appunto sia stata fatta appunto con grande dedizione, con grande velocità, e che possa funzionare al meglio per tutti, non solo per la Lombardia. Grazie Sara Monaci. Grazie a voi. Ciao cara Sara, buon lavoro. L'ascoltatore dice: quando questo pernicioso virus abuserà della nostra dabbenaggine, Roby, pensaci tu. Io penso solo purtroppo a informarvi, non ho altro potere. E vi voglio informare anche su questa cosa. Oggi è stato dato il via libera ai lavori della Task Force prevista dal decreto Cura Italia, il decreto del governo. Si tratta di un contingente praticamente multidisciplinare di 74 esperti, istituito dalla ministra dell'innovazione, che è Paola Pisano, in accordo col Ministero della Salute. Questo gruppo che cosa farà? Valuterà e proporrà delle soluzioni basate sui dati per la gestione dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, al vaglio del team anche una possibile applicazione in grado di tracciare gli spostamenti. Allora, sapete che già in Cina si utilizzano molte applicazioni, tecnologie che però sono molto invasive, anche perché la Cina non è certamente una democrazia come l'Italia, e qualcosa è stato utilizzato anche in Corea del Sud, ma in modo molto più morbido, no? Per tracciare i contagi, per avvertire quando ci si trova magari in zone a particolare rischio. E poi ci sono i droni, per esempio, invece in Italia, che sono utilizzati da alcune regioni, da alcuni comuni, per controllare dall'alto che non ci siano assembramenti, che insomma le persone rispettino le regole. E in serata, tra l'altro, ho visto che il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha chiesto ai lombardi di scaricare un'app che si chiama App Lom, anzi si chiama Allerta Lom, Allerta Lombardia. Dice: dobbiamo chiedervi impegno, sforzo di scaricare questa app sul cellulare che si chiama Allerta Lom. L'app raccoglierà i dati forniti dai cittadini in modo anonimo. Insomma, bisogna scaricarla e vedere un po' come funziona. Però, a proposito invece del lavoro di questa, di questo gruppo multidisciplinare, bisogna capire anche naturalmente come si può tutelare la privacy, visto che ne fa parte anche di questo gruppo multidisciplinare anche l'autorità garante della privacy. Allora, chiamo in causa Giuseppe Busia, che è segretario generale appunto dell'autorità per la protezione dei dati personali, autorità garante per la privacy. Dottor Busia, buonasera. Buonasera. Mi sente? Sì, sento, ecco, buonasera. Sì, sì. Buonasera. Allora, ne farete parte come autorità garante e possiamo avere la garanzia che in Italia con queste applicazioni, con queste tecnologie, insomma, non si rischi poi di entrare un po' nella privacy delle persone? Ecco, dobbiamo evitare gli eccessi cinesi, naturalmente, che non sarebbero compatibili con il nostro ordinamento, ma dobbiamo sapere che la normativa sulla privacy di per sé non impedisce la cura e la lotta al coronavirus. Quello che è necessario è naturalmente agire con trasparenza. Le eventuali misure devono essere chiare ai cittadini, devono essere esplicitate, devono essere previsti da una normativa che contenga garanzie adeguate e ovviamente anche la temporalità di questa raccolta dei dati. Probabilmente saranno necessarie delle raccolte di dati superiori a quello che normalmente si fa, proprio perché il fine è quello della tutela della salute pubblica, ma anche qui con ragionevolezza, con termini definiti e evitando che magari alcune piattaforme che già posseggono tantissimi dati che ci riguardano continuino ad arricchirsi utilizzando questo frangente non felice per tutti. Per realizzare questo la normativa sulla protezione dei dati personali ha tutti gli strumenti in sé, quindi non va sospesa come tale, ha tutti gli strumenti in sé per cercare di fare questo. Noi abbiamo accettato di partecipare ai lavori di questa commissione, naturalmente con un ruolo diverso da quello dei consulenti del ministro, proprio per far sì che fin dall'inizio ci siano all'interno del progetto che verrà realizzato gli ingredienti, le cautele, le garanzie che servono a evitare abusi che non sarebbero accettabili e che probabilmente non sarebbero neanche utili per la cura delle persone. Quindi questo è importante, che ci siate voi a vigilare, perché ci fidiamo naturalmente delle autorità, delle istituzioni, però è sempre meglio un occhio vigile. E, tra l'altro, dottor Busia, se non sbaglio, come garante per la privacy, avevo letto che state ricevendo delle segnalazioni, dei reclami dai cittadini nei quali viene lamentata da parte dei familiari la diffusione sui social, su organi di stampa, anche online, di alcuni elementi diciamo eccessivamente personali, come nome e cognome dei malati, vero? Che c'è questo? Sì, in molti casi ci è stato segnalato e abbiamo invitato i giornalisti a rispettare pure in questo frangente una cautela nei confronti dei malati, delle persone che si trovano in una situazione di debolezza. La diffusione di questi dati non è consentita e non serve il più delle volte alla cura. Noi per esempio in molti casi è sufficiente dire, anche da parte delle istituzioni pubbliche, ci sono stati sindaci che hanno pubblicato il nome di qualcuno, magari persone sconosciute, dicendo dove era andato, ma basta dire che si tratta per esempio di una persona di una trentina d'anni che si è spostato in certe zone o ha visto o ha visitato determinati locali. Inutile mettere nome e cognome, inutile mettere la fotografia, significa solo aggravare la sua sofferenza. Chiaro, benissimo. Allora, buon lavoro, dottor Giuseppe Busia, a lei e a tutta l'autorità garante della privacy. Grazie. Grazie molte, buonasera, grazie. E buon tutto, un abbraccio, visto che qua gli abbracci si possono dare solo virtualmente. Allora, io direi di fermarci per la solita pausa qui di sospensione, di riflessione, di respiro, mentre vedo diverse vostre domande, magari poi ci torniamo, e vedo anche però una dichiarazione, un'agenzia di pochi istanti fa, relativa delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte in un'intervista al canale tedesco ARD. Dice: a proposito delle misure restrittive, abbiamo dato assoluta priorità alla protezione della salute dei cittadini E poi ha detto, parlando del modello italiano, ha spiegato che sin dall'inizio siamo stati in stretto contatto con scienziati ed esperti, abbiamo preso misure severe, abbiamo progressivamente verificato che fossero adeguate, abbiamo agito nella massima trasparenza, dice ancora Conte in questa intervista, e dice questa va sempre garantita, la massima trasparenza ai cittadini. Queste sono le specificità del modello italiano, che è stato più volte riconosciuto come particolarmente efficace dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi lascio brevemente, torno ratta come la folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Lo sapete che se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con Roberta Giordano a casa vostra, tranquilli e tranquille, oppure per chi fa turni particolari di lavoro al lavoro, ma solo in casi eccezionali naturalmente, e qui, in modo che questo programma, lo sapete, è anche un programma anti-ansia e antivirus, perché più vi informate ascoltando Effetto Notte e più evitate il virus. Roberta Giordano sempre ad accompagnarvi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Abbiamo parlato quindi dell'ospedale che a Milano è stato costruito nei vecchi padiglioni della fiera e in tempi record, in una dozzina di giorni, con 21 milioni di donazioni, e dovrebbe per il momento avere almeno 200 posti di terapia intensiva, poi man mano crescerà. E poi abbiamo parlato anche dell'utilizzo delle tecnologie, non naturalmente quelle che sono state utilizzate in Cina e in parte in Corea del Sud, ma di questa task force messa in piedi dal Ministero dell'Innovazione in accordo con quello della Salute, per trovare delle soluzioni tecnologiche, anche applicazioni per il tracciamento dei contagi, per esempio, che potrebbe essere una misura proprio per cercare di sconfiggere, di contenere e sconfiggere il prima possibile l'epidemia in Italia. Adesso, a proposito invece di un dispositivo di sicurezza che purtroppo è anche diciamo molto carente, è stato molto carente in Italia, che si fa un po' di concorrenza in Europa e nel mondo per accaparrarselo, quello delle mascherine, no? A proposito di questo, al di là appunto che ve ne siano a sufficienza, comunque dalla parte sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche da alcuni esperti, scienziati, sono venute delle indicazioni a volte contraddittorie, nel senso che qualcuno diceva vanno assolutamente tenute, qualcun altro diceva ma in realtà non è che servano più di tanto. E allora, tra indicazioni e controindicazioni, vorrei che dicesse la propria opinione la professoressa Susanna Esposito, che è pediatra infettivologa, docente di pediatria all'Università degli Studi di Parma e presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici. Professoressa, buonasera. Buonasera a tutti. Sì. Sulle mascherine, quello che posso dire è che anche la mia posizione all'inizio dell'epidemia era diversa, nel senso che noi siamo abituati a quella che è la circolazione dei virus influenzali, in cui nel nostro paese abitualmente raccomandiamo le mascherine per chi ha sintomi acuti in atto. Qua però con coronavirus ci siamo trovati di fronte a un virus diverso, come abbiamo potuto ben notare, in cui i dati non vanno confrontati considerando soltanto il tasso di letalità come un numero, ma vanno analizzati per quella che è stata la diffusione all'interno della popolazione. E quindi inevitabilmente ci troviamo a dover confrontarci anche con paesi che hanno già superato la prima ondata epidemica, come ad esempio appunto la Cina, e in particolare una realtà come quella di Hong Kong, che è una città con più di 7 milioni di abitanti, molto vicina alla Cina continentale, in cui i casi nella prima ondata sono stati soltanto 150 e in cui vi è stata ora una seconda ondata determinata fondamentalmente dagli studenti che sono tornati dall'estero. Ma perché c'è stata questa seconda ondata? Proprio all'interno dei nuclei familiari, perché anche gli studenti che erano in quarantena naturalmente a casa con i propri familiari mangiavano senza mascherina e hanno diffuso l'infezione all'interno delle famiglie. Così pure in Cina era stato osservato, ormai ci sono dati pubblicati, che il ruolo del portatore asintomatico è stato importantissimo proprio all'interno di feste come Capodanno cinese. E quindi proprio per questo credo che ormai tutti i dati disponibili in letteratura siano a favore di un uso estensivo delle mascherine, e peraltro in questo momento chi è contro ne fa un problema di approvvigionamento che non può essere oggettivamente una ragione scientifica per non utilizzarle. È chiaro, se ce ne sono poche in primis vanno gli operatori sanitari, ma poi se dobbiamo pensare anche a una lenta ripresa, a quello che si chiama oggi il new normal, cioè una ripresa a una nuova normalità, indubbiamente l'uso delle mascherine per chi si trova in luoghi pubblici è assolutamente essenziale. Sarà indispensabile. Senta, professoressa Esposito, vedevo infatti che i ragazzi cinesi che sono tornati a scuola tornano con le mascherine. È vero che loro sono abituati da tempo, no? Le vedevamo ancora prima di conoscere questa maledetta pandemia in Italia, spesso gli orientali, i cinesi girare con le mascherine o per l'inquinamento, non si è capito se magari per evitare di starnutire, di infettare qualcuno, di essere infettati a loro volta. Comunque, insomma, leggevo che sono tornati a scuola tutti con le mascherine. Quindi, come diceva lei, al di là di quello che si farà adesso durante questo periodo, quando si cercherà di tornare a una specie di normalità, bisognerà comunque averlo come dispositivo quando si sta in mezzo agli altri? Beh, sicuramente, e infatti addirittura le autorità cinesi sui loro siti istituzionali sottolineano l'importanza della mascherina chirurgica. Anche tempo addietro, quando l'OMS aveva una posizione contraria, tuttora l'OMS è molto restio. Perché come al solito le autorità sono sempre molto restie a dire in un certo senso che hanno sbagliato o che comunque devono rivedere in modo radicale la loro posizione. Quello che però chiaramente gli esperti cinesi dicono, ma proprio senza ombra di dubbio, come se fosse un elemento scontato, è che il lavaggio delle mani e le altre misure di distanziamento sociale non sono sufficienti, che l'uso delle mascherine proprio per il peso del portatore asintomatico è fondamentale nell'ottica del contenimento del contagio. E credo quindi che oggi, dove già la posizione sui tamponi è cambiata rispetto a quella iniziale, ancora una volta pur non ammettendo radicalmente di non aver fatto adeguatamente quel contact tracing che mi auguro che oggi nel centro sud Italia venga effettuato, perché l'Italia non è uguale, quindi abbiamo visto cosa è successo nel nord ed è molto importante che questa misura in realtà viene interessata da Covid-19 venga comunque prontamente implementata. Così sul discorso dell'uso delle mascherine penso che l'obiettivo sia quello di apprendere da chi ha dimostrato effettivamente di essere riuscito a contenere un fenomeno epidemico su milioni di abitanti. Esposito, però bisogna anche distinguere, perché ci sono, vediamo, talmente tanti tipi di mascherine. Adesso lasciamo perdere ovviamente chi ne ha assoluto bisogno, chi è in prima linea come medici e infermieri, no? Chi opera comunque nel sistema sanitario. Ma la storia dell'FP3, FP2, mascherine fatte con tessuti, quali sono le mascherine davvero efficaci? Certo, no, ma è semplicissimo. Per quella che è la popolazione generale sono sufficienti le mascherine chirurgiche, quindi quello che è stato dimostrato proprio per evitare la diffusione dell'agente infettivo. Quindi non serve una mascherina, tra virgolette, super protettiva. Guardi, io le dico anche, mio figlio vorrebbe la mascherina più protettiva di tutte, mio marito per contro teneva la mascherina senza coprirsi il naso, quindi naturalmente le mascherine devono coprire naso e bocca, e comunque le mascherine chirurgiche sono assolutamente sufficienti e adeguate, quindi non c'è necessità di aumentare la protezione, anche perché spesso per gli operatori, per la gente comune, quindi non per gli operatori, mascherine più protettive, diciamo così, come l'FP2 e l'FP3, oltre a non trovare necessità, sono anche particolarmente difficili da sopportare per quello che è proprio il calore che emettono e la difficoltà a respirare che si ha le prime volte che le si indossa. Per cui le sufficienze chirurgiche, certo, sul discorso delle fatte in casa, lei capisce che c'è un'estrema variabilità. Poi è evidente, anche per dire, io ne ho provata di recente una di produzione artigianale da una ditta che si è riconvertita, una mascherina appunto prodotta da una ditta che non ne produceva prima, che equivale a una 4-strati chirurgica, che è particolarmente protettiva, ad alcuni dà più fastidio alla chirurgica perché naturalmente è più protettiva, però di fatto è una realtà ottimale. Però ripeto, nelle fatte in casa è molto importante valutare quelle che sono le caratteristiche, il fatto che effettivamente siano filtranti. Comunque, insomma, quello che si è capito, che lei appunto ritiene che sia necessario, almeno quelle chirurgiche, portare da parte dei cittadini, della popolazione, così normale, anche girando per strada, anche a distanza, e sicuramente per quando si cercherà di tornare alla normalità dovranno far parte, insomma, del nostro guardaroba in futuro. Io guardo, la cosa che ci devo anche sottolineare è che abbiamo letto adesso come verrà concessa l'ora, diciamo così, di passeggiata ai bambini con i genitori o con i nonni. Premesso che per il discorso nonni sottolineo l'importanza di evitare che ad andare in giro siano gli anziani, in particolare over 70, certo se i nonni sono molto giovani non c'è problema, ma insomma over 70 con malattie croniche non è opportuno, anche per i rischi che gli anziani possono avere. Ma per quanto riguarda la famosa ora di passeggiata dei bambini di cui si parla, anche al riguardo è molto importante il fatto che tutti i genitori, nonni, babysitter e bambini indossino la mascherina quando si esce. Chiaro. Grazie professoressa Susanna Esposito, grazie e buon lavoro. Ringrazio a tutti, moltissimo. Buona serata. Grazie. Ricordo, docente di pediatria all'Università degli Studi di Parma e presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici. C'è Ilaria Capo, la scienziata che sta negli Stati Uniti. Adesso sulla 7 sentiamo. La medicina cade, cioè vi sono diciamo delle situazioni nelle quali alcuni soggetti reagiscono in maniera diversa, succede. Cioè c'è l'eccezione che conferma le scienze biomediche. Ecco, l'eccezione conferma la regola, che è comunque una regola che noi facciamo con la nostra mente, ecco, non una regola che è connaturata al virus. Noi cerchiamo una regolarità statistica per confrontarsi col virus. Senta, il tasso di letalità, l'ISPI dice, state attenti, la letalità apparente è una cosa, la letalità ISPI plausibile che era ospite che ha fatto note ieri o l'altro ieri, se non sbaglio. Sentiamo che cosa risponde a proposito della letalità, Ilaria Capua. È molto difficile, perché sembra quasi di essere poco rispettosi nei confronti della grande sofferenza che questa malattia porta e la grande sofferenza e stravolgimento che avrà nella vita di ognuno di noi. Quindi è molto duro parlare, no, di numeri quando certo. Le persone diventano numeri. Però la scienza ha bisogno di numeri, ha bisogno di numeri certi. Una delle prime perplessità che insomma una buona parte della comunità scientifica aveva all'inizio era che i dati erano dei dati, diciamo, non raccolti in maniera omogenea e pertanto anche poco paragonabili. Diciamo che è importante capire che questo virus, diciamo, la letalità è il numero di morti sugli infetti, quindi se si considera che una larghissima parte delle persone sono asintomatiche, è ovvio che il drammatico dato che noi vediamo in alcune parti d'Italia è un dato che va ridimensionato, perché effettivamente il numero di persone infette è molto più alto. Questo non toglie nulla alla tragedia che stiamo vivendo e che le strutture sanitarie italiane stanno vivendo. Insomma, diceva sì, Ilaria Capua sulla 7 che praticamente a proposito della letalità, cioè su quanti morti rispetto a quanti sono al numero di contagiati, siccome anche uno studio di ieri internazionale diceva che probabilmente anche in Italia ci sono in verità milioni di contagiati e molti magari hanno dei sintomi talmente leggeri o sono quasi asintomatici che non si riesce a capire quanti sono, altri invece poveretti soffrono in casa, per fortuna in buona parte ce la fanno, ecco, rispetto a un numero molto più grande di quello che si pensa, dice, poi i poveri morti in percentuale significano che danno insomma il senso che la letalità non è poi così alta, anche se naturalmente bisogna parlare sempre col massimo rispetto dei tantissimi morti in senso assoluto che ci sono stati. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ora andiamo su una questione che ho ricordato più volte qui a Effetto Notte, sempre Roberta Giordano con voi naturalmente, proseguiamo con il flusso di Effetto Notte. Dicevo, l'ho ricordato dall'inizio delle misure restrittive dovute al contenimento insomma dell'epidemia di coronavirus, così come hanno lanciato più volte l'allarme le reti dei centri antiviolenza in Italia, cioè le conseguenze che le restrizioni generano tra le mura domestiche possono essere devastanti per le donne che subiscono violenza da compagni e mariti, perché purtroppo sono ancora più imprigionate, più a stretto contatto con i loro aguzzini. E anche se le donne che subiscono questa situazione, insomma, abbiamo ricordato più volte che esiste sempre il numero d'emergenza per le donne che subiscono violenza, che è il 1522. Proprio oggi, nel giro di poche ore, ci sono stati due femminicidi, uno a Furci Siculo vicino Messina. Un uomo, Antonio De Pace, ha strangolato la giovane fidanzata di 27 anni che a luglio si sarebbe laureata in medicina, e a Firenze sono stati trovati i cadaveri di due anziani, marito e moglie, in un'abitazione in zona Ponte alla Vittoria. Sul posto è intervenuta la squadra mobile e l'ipotesi è che si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo di 87 anni avrebbe sparato alla moglie con un fucile regolarmente detenuto, poi avrebbe rivolto l'arma verso se stesso. Allora, per capire che cosa si può fare in questo periodo per le donne che subiscono violenza, saluto la senatrice Valeria Valente, che è presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio. Buonasera, senatrice Valente. Salve, buonasera a voi. Allora, so che già nei giorni scorsi, per esempio, la ministra della Famiglia e le Pari Opportunità Bonetti, la ministra dell'Interno Lamorgese, hanno avvisato che era possibile scaricare gratuitamente anche sul cellulare l'applicazione 1522, no? E dicendo che i centri antiviolenza continuano a lavorare. Qual è la situazione, senatrice Valente? Ma intanto sì, che come avete più volte sottolineato, purtroppo le donne vivono una violenza acuita in questa fase, soprattutto tutte quelle donne che vivono una violenza all'interno delle mura domestiche. E loro sono soprattutto impossibilitate a tante volte anche semplicemente a fare una telefonata, e questo è sicuramente un problema. Per questo la possibilità messa a punto in queste settimane di scaricare l'app e di poter dialogare in chat privatamente dal telefonino attraverso la mail. Il punto è che purtroppo queste violenze crescono e contemporaneamente diminuiscono le denunce. Noi non possiamo far altro che dire, soprattutto alle donne, sappiate che c'è una rete pronta ad accogliervi. Lo ha ricordato, i centri di violenza continuano a lavorare H24, così come le case rifugio, che non hanno mai smesso di lavorare, non hanno chiuso, e continuano quindi a offrire assistenza. Ricordiamo che probabilmente per le donne forse proprio il percorso psicologico, quello diciamo in qualche modo non legato all'ultimo episodio di violenza, quello più efferato, quello che rischia di essere fatale, ma il percorso che anticipa diciamo tante volte l'episodio finale, quindi un percorso fatto di violenze continue, di schiaffi, di cultura di sopraffazione, di angherie, di soprusi, di offese, di quel tipo di percorso che vivono tante donne, quel tunnel che vivono tante donne, durante il quale iniziano a prendere consapevolezza non solo di quello che stanno vivendo, ma delle possibilità che hanno per uscirne, quello viene stato brutalmente interrotto. Cioè sono soprattutto le chiamate al 1522 che sono notevolmente diminuite, questo fino a qualche giorno fa. Poi per fortuna è rinata una campagna, grazie ovviamente alla sensibilità, al grido d'allarme lanciato dai centri antiviolenza che hanno continuato a lavorare, lo hanno segnalato subito, le istituzioni sono state pronte ad accogliere, la ministra Bonetti, il governo tutto. Noi come Commissione d'inchiesta sul femminicidio abbiamo varato un documento all'unanimità da parte di tutte le forze politiche. Senatrice Valente, mi perdoni, siccome sta dicendo delle cose molto importanti, lei per caso ha un viva voce o qualcosa del genere che non la sento benissimo? No. Ecco, però stava dicendo che come componenti della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, lei nella Presidente, avete anche presentato un pacchetto da inserire nel decreto Cura Italia, se non sbaglio? Sì. Di misure, alcune di queste vanno come emendamenti al Cura Italia, alcune di queste, altre vanno direttamente come atti di indirizzo che noi rivolgiamo al governo e agli operatori. Ci è arrivata una risposta pronta del prefetto Gabrielli, capo delle forze di polizia, che ha emanato una circolare a tutte le questure per sensibilizzare le forze dell'ordine a essere attenti, accorti, ad avere soprattutto un approccio molto professionale e molto specializzato. Quindi dobbiamo ricordare alle donne che se hanno bisogno di un consulto psicologico, di una voce amica, di un dialogo con un operatore, è bene che chiamino il 1522 e dialoghino con il 1522 con un centro antiviolenza. Se sono in procinto e hanno intuito che la violenza invece sta vivendo un escalation drammatico ed è veramente pericoloso, messo in pericolo la loro vita, sanno benissimo a chiamare le forze dell'ordine, 112, 113, e ci saranno poi loro, a loro volta, a metterli in contatto con i centri antiviolenza e le case di rifugio. Noi, come Commissione d'inchiesta, abbiamo fatto degli emendamenti al Cura Italia, chiedendo innanzitutto risorse aggiuntive per tutta la rete dei centri antiviolenza, un fondo per l'autonomia delle donne che fuoriescono dai percorsi di violenza, ma quello che voglio ricordare per noi è prioritario, un appello a tutte le forze dell'ordine, ai giudici, ai magistrati e agli avvocati, affinché le prime misure adottate sono sempre e soprattutto quelle che allontanano l'uomo dalla casa e non la donna, con tante volte bambini a seguito, bambini certo, e minori a seguito. Ricordiamo che anche tutta la parentesi, tutta la partita dei bambini è molto delicata in questa fase, hanno interrotto percorsi di studio, percorsi scolastici, sono costretti a vivere episodi di violenza. Dobbiamo mettere in sicurezza donne e bambini, e il loro luogo più sicuro è la casa, ma senza l'uomo violento. Quindi sì, la misura di allontanare le donne dalle case e portarle nelle case di rifugio deve essere una misura residuale, perché oggi esistono gli strumenti per allontanare giuridici nel codice di procedura penale ma anche nel codice civile per allontanare gli uomini violenti dalle case e dalle donne. Chiarissima, senatrice Valente, lo ricordo ancora una volta, quindi il numero per l'emergenza per le donne che subiscono violenza è 1522, altrimenti per le forze dell'ordine chiamare il 113 o il 112 e non subire e non avere paura di chiedere aiuto, perché altrimenti le cose purtroppo possono peggiorare. Grazie senatrice Valeria Valente, grazie e buon lavoro anche con la commissione così importante. Grazie, buona serata. Adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti, con il nostro Riccardo Barlam. Stiamo seguendo di giorno in giorno l'evoluzione del paese che purtroppo ha superato anche i morti della Cina, almeno quelli ufficiali, perché qualche ascoltatore poi dice ma come fate a dire che più o meno della Cina, se la Cina... Allora, quelli considerati i dati ufficiali forniti dalla Cina, poi quanti saranno effettivamente... tranne che i cinesi o le autorità cinesi, noi non possiamo saperlo. Pare che adesso al momento, Riccardo, siano oltre 3.500 negli Stati Uniti le vittime del coronavirus. 3.538, solo oggi a New York sono morte 300 persone e il sindaco De Blasio ha appena detto che nei prossimi giorni, secondo le sue proiezioni, ne moriranno solo in questa città 700 al giorno. E tra l'altro ha parlato anche di multe in arrivo per chi, come in Italia, viola le norme sul distanziamento sociale. Qui si parla di una crisi, nonostante tutta la retorica, la vittoria, la guerra, vinceremo la guerra, tutte queste parole che fino a qualche giorno fa sentivate, riapriamo la Pasqua, le chiese, da Trump, sì. Si parla di una crisi che durerà diversi mesi e con stime, è la seconda volta che leggo uno studio dove si parla di milioni di persone infettate, milioni e 100.000 morti nel caso, diciamo, non peggiore, in uno scenario non peggiore. È una cosa che ovviamente spaventa chi vive qui come me e anche tutte le persone che conosco. È una situazione veramente delicata. Pensate che le cose più banali, ma anche il termometro, non si trovano. Gli ospedali, adesso c'è in questi giorni una corsa alla cooperazione, al di là dei discorsi politici di destra, di sinistra, insomma a un certo punto si sono messi tutti a cooperare e dopo una partenza rallentatore mi sembra che ci sia un atteggiamento molto responsabile da parte delle istituzioni ma anche dalle persone. Per strada tutte quante stanno attente l'uno all'altro. Riccardo, tra l'altro ho letto che a New York per la prima volta è morto un bambino, anche se si dice, sì, non si parla dell'età, ma che avesse comunque delle patologie preesistenti. E poi invece che è morto un ragazzo, se non sbaglio un 17enne in California, perché era senza assicurazione. Ma molti si chiedono, ma negli Stati Uniti, che appunto non esiste un sistema sanitario nazionale, quindi che accoglie tutti, che cura tutti, come si stanno curando le persone, Riccardo? Quindi... È drammatica la situazione, perché il costo, ho letto da qualche parte che si parla di minimo 30.000, ma può arrivare anche a 100.000 il costo di un ricovero per il Covid-19. E non tutti hanno l'assicurazione, non tutti hanno l'assicurazione giusta, e quindi... In questo momento tocchi con mano cosa vuol dire avere un sistema sanitario pubblico come il nostro europeo o canadese, dove tutti hanno assistenza. Quindi è un paese veramente, in questo senso, un po' per tanti motivi è sempre andata così. Qui c'è il modello privato, che è quello che avanza, insomma, che vince, anche se le assicurazioni hanno detto di non preoccuparsi dei conti delle assicurazioni, insomma. Il problema c'è, è evidente che c'è, perché è totalmente diverso rispetto in Italia, per esempio. E poi vi racconto cosa vuol dire andare a comprare dei farmaci o fare una visita medica in tempi normali, ecco. O andare al pronto soccorso per un posto slogato e ti trovarsi un conto di 5-6 mila dollari come minimo. Aspetta, terribile. Il nostro sistema sanitario, che è europeo, l'IVA che paghiamo bisogna difenderlo con i denti, è stato purtroppo smantellato negli ultimi anni in tante regioni a favore di un sistema misto, ma insomma io devo dire anche la mia esperienza personale, ho avuto dei problemi molto seri in famiglia e siamo stati curati grazie al servizio sanitario. Ed è anche per questo che è importante che tutti paghiamo le tasse, naturalmente, perché una buona quota delle tasse va anche poi nella possibilità di avere l'assistenza sanitaria. Grazie Riccardo Barlam da New York, mi raccomando, un abbraccio, stai attento a te, non ti slogare neanche un polso. Un abbraccio a tutti. Ciao Riccardo, a presto. ci risentiamo alle 22.